Radio Wombat 8 Hertz. E benvenuti ascoltatori alla nuova puntata di 8 Hertz, che ho un po' intitolato 8 Siders, scritto con la 8 in modo tale che faccia un po' richiamo al programma, una cosa molto fine ovviamente, 8 che sta anche un po' per odio, che ci sta sempre bene. Comunque appunto, stasera parleremo un po' di outsider nell'ambiente musicale, cioè coloro che non sono conosciuti ma che in realtà sono stati importantissimi secondo me anche per la musica mainstream, o per compositori che hanno avuto molta più fortuna. Ho voluto chiamare un ospite d'eccezione che è Filippo Panichi, anche lui compositore di musica elettronica, elettroacustica, ne sa un sacco e vi dirà anche aneddoti in questo viaggio secondo me piacevole che vi farete nei meandri dei vostri cervelli. E appunto, ciao Filippo. Ciao a tutti. Ciao, c'avevi qualcosa da dire su, appunto, su 8 Siders? Mi dicevi prima che in realtà ci sono anche altre cose da dire sulla puntata in generale, sul senso della puntata. Beh sì, che prima di tutto questa non è una lista esaustiva, ma è sicuramente una, diciamo, una compilation parziale. E questa parzialità è dovuta più che altro a un discorso emotivo, diciamo. Questi compositori sono stati un po' selezionati per, appunto, per essere degli outsider, per il fatto che sono degli outsider più o meno tuttora, ma anche per certe diciamo comunità di intenti. Parla più vicino. Una voce non potentissima. Per certe affinità che io personalmente trovo tra loro, non è detto che poi ci siano, e trovo anche un po' con il mio percorso personale. Ok, non sarà un percorso storico, non sarà una lezione, ma sarà comunque tanti suoni da ascoltare. E quindi vabbè, presentiamo subito il primo artista o compositore, che si chiama Gedalia Tazartes, parigino, ma forse nato nel 1947, ma ne sappiamo ben poco di lui. Potrebbe essere la sua biografia tutta una finzione. Comunque si può dire che mischia un po' la musica tradizionale con la poesia sonora, la musica concreta, con un gran lavoro di voci e loop. Lui camuffa molto la voce, poteva essere donna, uomo, bambino, anziano, un po' di tutto. Tu cosa vorresti dire su di lui? C'è un sacco di cose interessanti. Diciamo, io sono venuto in contatto con questo artista un po' tardi, diciamo, negli ultimi anni. Quello che si può dire è che ci sono i dischi, diciamo, classici pubblicati negli anni 70. Le date di pubblicazione sono abbastanza incerte, perché erano cose pubblicate autoprodotte su vinile e con scarsissime informazioni sopra. Sono state ripubblicate da un'etichetta italiana che si chiama Alga Margen, con cui lui penso sia entrato in contatto a un certo punto, cioè tipo li abbia conosciuti, tanto è che molte cose sono state anche compilate da loro poi negli anni successivi. Diciamo che dopo questo periodo, cioè diciamo che dal 2007 Tazartes, che ha una certa età, risuona dal vivo, quindi diciamo che adesso potremmo anche saperne un po' di più, magari potremmo vederlo dal vivo. Insomma, sarebbe bello riuscire a portarlo anche a Firenze, magari no, cioè, c'è qualche associazione, qualcuno che si vuole proporre. Che si vuole proporre, fatevi avanti, insomma. Vabbè, intanto lo mettiamo, il pezzo si chiama, è tratto da, da un suo album dell'84 che si chiama Un Eclipse Total de Soleil. Lo ascoltiamo, poi lo sfumiamo, perché comunque tutto stasera sarà musica abbastanza lunga e prenderemo degli estratti. Intanto buon ascolto. We'll be right back. Questo è il grande lavoro che fa principalmente sulle voci di Gedalia Tazartes, come potete ascoltare è un folle, ma come sono folli tutte le altre, gli altri brani o composizioni o parti di composizioni del resto della puntata. A parte lui sono quasi tutti americani, gli artisti che ascolterete. Appunto proprio un tipo losco di Oakland, perché si parla sempre di tra il barbonaggio, il brutto carattere, l'alcolizzato, il drogato, insomma tutti soggettini così, che oggi sono vecchietti, molto arzilli, qualcuno è morto, vabbè. Comunque l'artista in questione si chiama Harry Parch, che è veramente un compositore, appunto statunitense di San Diego, ha avuto un'importanza particolare nella musica contemporanea, perché è stato uno dei costruttori più decisi di strumenti appunto inventati individualmente. Infatti l'individualismo era un carattere forte della sua persona. È stato anche un precursore degli happening musicali, cioè dove succedeva di tutto di più dal vivo e non solo il facile ascolto musicale. Insomma, il pezzo che andiamo ad ascoltare si chiama Church of Shadows del 71. Tu, Filippo, vuoi dire qualcosa su Harry Parch? Beh, sì, prima di tutto Harry Potter è una generazione un po' prima, è nato nel 1901, e a parte il periodo della depressione, della crisi del 29, in cui è dovuto stare un po' fermino, ha studiato, per il resto non è che sia stato ignorato in vita, anzi, cioè, alcuni spettacoli che ha fatto hanno avuto anche un successo che gli veniva spesso chiesto di replicare, ma lui è sempre stato un po' dentro e fuori dall'Accademia. Alla fine forse si è allontanato lui perché è come se questi fossero degli scocciatori. Lui in realtà vedeva la musica come una specie di rituale tra teatrale e religioso, in cui si doveva avvenire, la gente doveva trovare se stessa. E vabbè, c'è da dire, c'è un'altra cosa abbastanza importante, che la musica di Pace non può essere suonata se non usando gli strumenti che lui costruiva. Quindi è praticamente impossibile riprodurla ad oggi, a meno che non è rientrato nelle sue grazie, insomma. Beh, gli strumenti sono conservati e sono, per ora vengono mantenuti. Vita. Certo, non è facilissimo proporre questa musica perché devi comunque metterti d'accordo con loro. Sono gli strumenti che costruiva, giusto così per darvi un'idea, erano robe simili a vibrafoni o strumentazioni fatte con il vetro o la plastica, molto percussive, vicino alle marimbe, insomma. Con accordature non convenzionali e non basate sui 12 semitoni, cioè spesso microtonali, ora non entriamo troppo nel tecnico, comunque. A mio gusto le cose che proponi stasera, perché insomma la scaletta, la puntata l'hai decisa fondamentalmente tu. Harry Parch è stato quello che mi ha colpito di più a livello proprio di suoni, ma anche poi di composizione. Ha scritto anche molto, eh? Ok. Si trovano delle cose. Ce l'andiamo a ascoltare, che dici? Beh, sì. Allora, Harry Parch, Chorus of Shadows, tratto da questa opera che è anche un happening, una cosa molto particolare, appunto di strumenti autocostruiti, che si chiama Delusion of the Fury. Ascoltatela. Thank you. flusso della puntata mi aveva fatto scegliere il prossimo autore, che si chiama Morton Subotnick, che è sempre un vecchio perché è nato nel 33. Appunto, ha cofondato durante gli anni 60 il San Francisco Tape Music Center, ai quali aderirono pure Terry Riley e Steve Reich, tra i grandi della musica minimale, e un creatore di synth anche. Comunque Filippo mi stava bacchettando perché diceva che non è un outsider, e quindi ora subisco le sue critiche, ecco. No, nel senso che fondamentalmente è quello più, diciamo, più inserito nell'accademia, perché è sempre stato in università, centri di ricerca, però è a suo modo un outsider, perché la parte più conosciuta della sua produzione inizia dall'incontro con Don Buchla e con i sintetizzatori che lui stava progettando, che sono, vabbè, sono i synth più di fuori come concezione. Che tra l'altro dicono che Silver Apples of the Moon del 67 a quanto pare sia il primo disco totalmente registrato di synth, poi non so se è vero. Sì, lui si fece praticamente, non dico endorser, però lavorava proprio in collaborazione con Buchla, e questo disco qui nacque proprio dal suo godimento nel mettere le mani su questi strumenti. Quindi, però spiega chi è Buchla, se no non si capisce. Buchla è il progettista e inventore di questo sintetizzatore, che, diciamo, aveva una concezione abbastanza diversa da quelli che c'erano allora, dai Moog. Era molto più, cioè, considerato un synth piuttosto bizzoso e cervellotico, ecco. Più punk? Ma anche se lo vedi, so, per esempio, invece di averci tasti, una tastiera normale c'ha dei contatti di metallo, su cui, insomma, sembra un po' una specie di meccano colorato. Ok, che il synth, cioè, si chiama proprio Buchla? Si chiama così, ce ne sono stati vari modelli, e tutti abbastanza, direi, costosetti. Vabbè, allora il problema non si poneva, perché queste cose stavano solo nelle università. Infatti si potrebbe dire che un altro merito di Subotnick è stato quello di aggregatore. Esatto. Cioè di riuscire a far utilizzare queste cose anche a altri musicisti un po' più fuori dall'accademia o un po' più poveri, come ad esempio vedremo Charlemagne Palestina. Sì, infatti diciamo che potrebbe essere, se mi permetti, il fighetto che però ha permesso a degli sgabbiati di fare delle cose. Sì, anche se poi, insomma, fighetto sgabbiato, sgabbiato pure lui, insomma. Cioè, diciamo che poi comunque lui ha fatto molte cose. Se non erro, lui di questo del suo brano più famoso, insomma, del Silver Apples of the Moon, disse che, insomma, è un po', come dire, un pezzo dance, diciamo. Cioè, ci sono cose più, molto più concettuali, altre apparentemente più pop, però è sicuramente stato un aggregatore, diciamo, di persone. E poi questo suo, diciamo, appoggiare questo progetto di synth ha fatto sì che queste cose, insomma, sopravvivessero e venissero apprezzate, non era proprio scontato. E mentre in Touch cosa succede? Che è appunto il pezzo, una parte di disco che ascoltiamo stasera, che è del 1969. Touch sono delle... Cioè, un lavoro di decomposizione vocale su delle sillabe della parola touch, e smontato secondo moltissime varianti ritmiche. La cosa particolare è che questa cosa qui era in quadrifonia dal vivo, diciamo. Ovviamente sul disco no, non può essere così. Certo. Però l'attenzione alla spazializzazione del suono. E quindi non ci rimane che ascoltare una parte di Touch. boh, mi piacerebbe che foste interessati su queste cose, e dai, cioè, mettetecela tutta. So che sono argomenti difficili, ma insomma, se possono ascoltare, anche perché poi tante cose che ascoltate vengono anche da questi autori, non ve lo dimenticate. No, si stava dicendo che stiamo dando delle informazioni falsissime nell'arco della puntata, quindi potete credere in tutto o in niente, che è un po' quello l'apporto base della religione, insomma. A parte verità, a parte appunto scansiamole. Avete ascoltato Morton Subotnik e secondo me mi è venuto da mettere in scaletta in Heart Sweet Wound, che forse è roba più odierna e in alcuni ambienti più conosciuta. Era nato come trio nel 78, comunque poi fondamentalmente è il progetto di Steven Stapleton, inglese, che ha sempre voluto mischiare roba dadaista e surrealista come concetto musicale nei brani, quindi ha fatto anche cose stranissime come musica brasiliana o lounge o dischi ambient in triplo CD, quasi tutto uguale. Io lo vidi tempo fa qua a Firenze. Il suo live fondamentalmente consisteva nel mandare un CD a volume rallentatissimo, picciato in basso, e lo manipolava molto lentamente, con qualcosa in più di aggiunte. Comunque, insomma, era molto famosa la discografia per la tecnica del collage musicale, che è il cut up, quindi si sentono pezzetti di dischi di generi più variati che girano nelle casse o frontalmente li subisci. Comunque tra anche il krautrock, John Cage, ha collaborato con John Balance dei Coil, con Teo Teardo Italiota, con David Tibet, con Fetus, insomma con un po' il movimento post-industriale di fine anni 70, proprio gli ultimi anni. È sempre andato avanti, ha continuato. Tra cui una cosa curiosa è anche il remix di un live dei Sun, il gruppo drum metal, che credo sia semplicemente un po' picciato in basso e basta. Comunque geniale, così come è geniale il pezzo che ci ascoltiamo. Filippo, vuoi dire qualcosa su In Heart Sweet Wound? Non so se l'hai visti anche tu. Sì, vorrei aggiungere qualcosina sul fatto, vabbè, a parte un aneddoto stupido, il titolo del loro primo disco. Sì, che tra l'altro è quello, il brano è un pezzo del primo disco, che è lunghissimo il titolo. È una citazione dai Canti di Maldoror del Conte de Lautremont, che è una, ispirazione anche dei dadaisti, surrealisti, è un libro penso fondamentale. E l'altra cosa è che In Heart Sweet Wound sono per me almeno stati molto importanti anche per una cosa che è conosciuta come In Heart Sweet Wound List. A un certo punto loro fecero una lista delle loro influenze, e questa lista comprende oscuri gruppi prog, un po' di tutto. È veramente una fonte, diciamo, di ispirazione notevole. Sai che c'è un programma qui alla radio che si chiama Il rovescio della medaglia, che è solo sul prog. Dovresti parlare con i autori se conoscono la NWW List. Beh, penso di sì. Ho visto che un importante distributore italiano di musica sperimentale ha una sezione sul suo catalogo con questa lista, cioè con i dischi che loro vendono appartenenti a questa lista, insomma. Ma oltre al prog nella lista cos'altro c'è, insomma? Perché sennò sembra che facciano, si siano ispirati solo no, c'è un po' di tutto. C'è della musica sperimentale, ci sono anche cose cantate, ci sono un sacco di dischi italiani che nemmeno conoscevo, e oltretutto quando parlo di prog parlo sempre delle cose un po' devianti del prog. Certo. Non c'è quasi mai il disco prog tipico, c'è sempre la roba un po' fuori dagli schemi, ecco. Solo che quando io conobbi questa lista mi sorprendeva un po' questa loro passione per certi tipi di cose che non avrei pensato che fossero parte del loro background. E invece sì, ma d'altra parte uno che fa della catap music penso, infatti, per forza di cose debba avere una cultura musicale abbastanza ad ampio spettro, se no c'è divertimento. Comunque mettiamo appunto North Sweet Wound dal allora il pezzo, ve lo dico, si chiama Six Buttons of Sex Appeal, di un disco del 79 che si chiama Change Meeting on a Dissected Table of a Sewing Machine and Umbrella, il primo disco del geniale Stephen Stapleton. Connessione con questa cosa della lista di North Sweet Wound, mi è venuta in mente un'altra cosa che è stata abbastanza importante per la mia conoscenza, dice che ce ne frega, insomma, sì, vabbè, per la conoscenza di un certo tipo di musica prima che certe cose diventassero più disponibili, che è stata questa etichetta che si chiamava Krill Pawn, di un musicista che forse alcuni di voi conosceranno, che si chiama Keith Fullerton Whitman, che ripubblicava in CDR cose che erano considerate perse, cioè di cui non si sapeva chi aveva i diritti, che non venivano ristampate per motivi sconosciuti a lui quantomeno. E diciamo che questi dischi riportavano una specie di disclaimer in cui si diceva che se qualcuno aveva da protestare o reclamare i diritti, loro avrebbero tolto il disco dal commercio. Questa etichetta ha fatto conoscere cose che effettivamente magari adesso sono ristampate, alcune penso anche di no, e che non si sarebbero conservate. Quindi questo discorso qui, come anche il discorso del download digitale, che spesso viene diciamo accusato di varie cose, insomma di danneggiare le vendite, ha anche fatto conoscere cose che, esatto, al di là di tutto non si potevano comprare neanche volendo. No, e quando avevamo la banda 54, come cos'era? 54K, sì, quella del telefono, modem, sentivi lo scatto. Sì, sì, sì. Potrebbe essere un disco di musica sperimentale. Io penso di avere gli scatti, tantissime cose grazie a un benefattore che sta a New York, che mi ha permesso di frugare sui suoi hard disk per anni. Penso. Grazie anche a SoulSeek, sì, e alle cose che sono state. Era su SoulSeek, facemmo amicizia e lui aveva della roba che io non sapevo. A volte scaricavo cose a caso. Cioè, il punto è questo: le cose che ascoltiamo stasera, senza l'apporto digitale, nella nostra generazione, che te sei più vecchio di me, come le veniva a conoscere? Difficile. Ci sono stati periodi in cui certe cose o non si trovavano o costavano moltissimo, venivano di importazione, ma era difficile anche proprio sapere, cioè, che esistevano, anche trovare una copia qualunque in un qualunque formato legale. Certo. E vabbè, sulla difficoltà di esistere, aggancio un po' di social sulla difficoltà di esistere di questa radio, che insomma cerchiamo di dare il meglio nell'area fiorentina e anche ovunque, visto che è in streaming, ma speriamo che un giorno sia anche on air veramente. Ricordo appunto un po' di social oltre al sito, che appunto se ci state ascoltando si presume che lo conoscete, che comunque è tutto con la www.wombat.noblogs.org. c'è il Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi, il Facebook, che via via tentiamo di aggiornare e darvi sempre una cosa sempre più cool, diciamo, anche se i social insomma ci stanno un po' indigesti come il gruppo storico. Comunque facebook.com/radio-wombat-firenze. La mail, che è molto importante per le vostre critiche o per adorarci, strapparvi i capelli dicendoci: cacchio, cioè la puntata di 8 Hz ultima è stata veramente una figata, cioè sono completamente fuori, tipo non ci sto con la testa, dovete rifarle, proprio grande, cioè vivo per Radio Wombat, che si chiama postawombat@insiberia.net. Vi ricordo che siate su 8 Hz, per cui insomma stasera è un salotto, ma può essere anche una stanza buia isolazionista, a seconda un po' di come mi gira e degli input, delle cose che succedono nell'arco della giornata, sia della settimana, che può essere interiore o anche avere a che fare con l'esterno, che sono sempre grandi menate. Comunque vi ricordo che oltre a 8 Hz ci sono un sacco di trasmissioni diversificate. C'è Uru, che parla di musica africana, Fuoco alle Polveri, che è un format di tutto di più, tra letteratura, musica, interviste, insomma dovete ascoltare. La Revancia, che fa ascoltare punk hardcore. 3000 siepi, che narra di peripezie atletiche mischiate a musiche subitanee. La fuga del gatto di Classica, Music Vox Populi, che è dedicato a persone che vogliono farsi conoscere. Il rovescio della medaglia, che è sul prog. Coccoli al silicio, che è roba da nerd, quindi lasciate stare, tanto non ci capite nulla. Soul Time, roba attinente. Io non so mai come spiegarla questa cosa, perché non ci sono dentro. Comunque rocksteady, robe afro anni 50, 40, 60, comunque molto calde, molto calor. Insomma, infatti, Tonight Alive, che sono dei bootleg preziosissimi di live di tutti i tipi, dal jazz al rock, l'hard rock, di tutto di più. Slick Chick, che c'è Bloody Mary che vi parla sempre di programmi attinenti a un giro cervicale abbastanza di fuori, un po' modello anche 8 Hertz. L'Accademia della Brusca, di linguistica e musiche che hanno a che fare con la linguistica, che tornerà prestissimo. Che maledette, erano tra gli ascolti più grossi di Radio Wombat nelle statistiche statali, ma anche universali. Vabbè, ho finito con le cose, con la propaganda. Ok, e quindi è finita un po' la prima parte, ma siamo forse un po' in ritardo, vediamo che succede dopo, se ci tagliano. No. E quindi adesso si parla di persone che hanno fatto un sacco di soldi, a quanto pare, anzi, no, di una persona. Li hanno anche spesi. Li ha anche spesi, che è la Monte Young. Che studiate, voi studenti universitari, sapete che è il nome che conoscete della puntata. Conoscete? Ma insomma, fondamentalmente l'importanza della Monte Young per la musica contemporanea è in parte extra musicale, cioè se anche vedete qualche immagine di lui, come si presenta tuttora, insomma, piuttosto folcloristico, non si direbbe che è stato un accademico, è stato anche un, diciamo, un sassofonista jazz. Sì, agli inizi è stato un sassofonista. Però poi è stato anche allievo di Stockhausen, diciamo, è stato a Darmstadt. Quando è tornato a New York, praticamente entrò in contatto con Fluxus, questo movimento di George Mashunas, a cui poi erano vicine anche personalità come Yoko Ono, e iniziò a suonare, fare performance appunto per esempio nel loft di Yoko Ono. Però pare che parte di questa cosa fosse dovuta non solo alla sua personalità a dir poco magnetica, ma anche al fatto fondamentalmente che vendeva droghe. Dai Filippo, raccontaci di più. Ma sì, pare che lui, come John Cale, che era un suo, diciamo, discepolo, allievo. John Cale, ricordiamo che era il violinista dei Velvet Underground, che poi dopo collaborato con Nico nei dischi più belli, che ha avuto una carriera solista abbastanza acida, ma nello stesso tempo quadrata. C'è tutto un crocevia, un momento storico in cui, diciamo, si sono incontrate queste persone, tra cui anche Tony Horrod, che non fa parte di questa puntata, ma potrebbe far parte di una prossima, insieme a quelli, esatto, che non abbiamo incluso. Cioè, questa gente si è incontrata fondamentalmente, loro si divertivano, ecco, si drogavano, eccetera eccetera. Pare che proprio ci avessero una specie di business, e per questo fossero così ben accetti nella società alternativa del posto. Questo però ha permesso anche alla musica di passare. Poi, insomma, la Monte Young nella sua vita ha fatto varie cose piuttosto strane. Per esempio, adottare praticamente questo maestro di canto indiano, Pandit Prana, che è, cioè, è un altro personaggio fondamentale, però proprio lui lo prese e lo mise a vivere a casa sua mantenendolo. E pare che la Monte Yang fosse così scaltro da avere delle specie di schiavi. Tant'è vero che alcune di queste cose le ho lette in un'intervista di uno schiavo liberato, diciamo uno di quelli che si è ribellato a questa cosa. Il motivo per cui si è ribellato, a dir suo, è che il maestro indiano lo mandava sempre a comprare le birre e gli dava dei cascabaccioni. E quindi lui un giorno si è rotto le scatole e ha detto: vabbè, sai che io me ne vado e racconto tutto. Però comunque questo aspetto di performance che di comunione, misticismo, anche un po' di, diciamo, primitivismo forse per certi versi, è stata una cosa importante per un certo tipo di musica, perché nell'ambito dell'Accademia, perlomeno europea, questa roba non sarebbe mai potuta nascere. Certo, c'è una sorta di atteggiamento diverso che va ancora oltre le sperimentazioni dell'Accademia, che comunque un'Accademia non potrà mai essere sperimentale più di tanto, perché è appunto Accademia, cioè ti insegna le cose passate. Da cui venivano loro, cioè la scuola di Darmstadt era particolarmente fredda, particolarmente concettuale, molto matematica. Loro hanno reinserito degli elementi abbastanza primordiali in questa cosa. Quindi c'è il Theater of Eternal Music, l'estrema concentrazione su alcune piccole cose, su alcuni eventi, il suono in sé, senza grandi teorizzazioni. Però facciamo capire gli sfortunati o fortunati che ci ascoltano che si parla di un'area che ha a che fare tra le prime volte con i bordoni nella musica contemporanea del Novecento, di metà Novecento, nel senso che i bordoni erano una tecnica che viene ben prima del Novecento. Ora non riesco a dirvi quanto, però che sarebbero i droni odierni, cioè una cosa sotto abbastanza bassa che rimane costante e fissa. Per cui la Monte Yang è stato tra i primi a proporre i bordoni o i droni in una forma contemporanea. Sono cose che ritornano, cioè nella musica indiana queste cose lì sono più o meno sempre state presenti, nella musica occidentale sono state per un certo periodo dimenticate, cioè esistevano nel barocco e non esistevano più nell'Ottocento, non venivano più tenute di conto, sono ritornate tramite queste persone che sono state libere in America, perché l'America era un continente nuovo, no? Certo. Cioè aveva sotto il cascame culturale dell'Europa, sono stati liberi di riproporre un certo tipo di discorso, ma questo discorso è sempre stato trasversale e vivo nella musica. Era, cioè, c'è sempre stato. Era bello del Theater of Eternal Music, appunto noi ora lo stiamo ascoltando in sottofondo, ma salirà, appunto, oltre a Tony Corland c'era Harry Flint, John Cale al violoncello, la sua moglie Marian Zazila, che è stata un input molto... Senza trascurare Angus MacLise. Ok, alle percussioni. Che sono altri due di quelli che, diciamo, sono piuttosto veramente sconosciuti. Comunque considerate che la cosa che state ascoltando in sottofondo e che ascolterete nei prossimi minuti, che si chiama The Theater of Eternal Music, il brano in questione è The Fire is in a Mirror, con quasi una... vabbè, i Coil già su questo titolo hanno un perché. Vabbè, a parte la fissa sui Coil mia o nostra, i suoni riverberati dovrebbero essere ascoltati in apposite dream houses, cioè case del sogno, che erano appunto progettate dallo stesso Lamont Young, questo nome che già è un trip a raccontarvelo, a dirvelo. Sì. Vabbè, ne abbiamo parlato tanto, ma la Monte Young è veramente importante anche nell'arte povera, in alcune performance che ci sono state negli anni 60. Thank you. follie, che poi in realtà non sarebbero su follie, ma sono tentativi umani di esprimersi, insomma. Insomma, dici, Filippo. No, vabbè, io quando penso alla Monte Young, che se vi guardate qualche foto, insomma, sembra un tipo molto simpatico mood, no? In realtà è uno che è sempre riuscito appunto a procacciarsi grandi quantità di denaro, perché lui dice ne consuma tanto, e in effetti io posso anche capire. E evidentemente doveva essere una persona, deve essere, perché è vivo fortunatamente, una persona molto grande, molto convinta di sé, di quello che pensa, perché nonostante non abbia fatto quasi mai niente per propagandare la sua musica, per diffonderla, esistono relativamente poche registrazioni, come di molti altri di questa puntata. Spesso e volentieri queste persone avevano più a cuore la performance o anche semplicemente la loro vita, piuttosto che registrare o divulgare la loro musica. Però una cosa curiosa che ho letto tempo fa, penso uno degli ultimi concerti di La Monte Young in America, in cui il promoter del concerto gli rimproverava di non aver fatto per niente promozione, e lui gli ha risposto: ma tu stai scherzando, non ti rendi conto che io sono troppo famoso? Come dire, se beato lui, faccio anche promotion, poi rischiamo che non sappiamo dove mettere questa gente. Insomma, questo la dice lunga, perché è una convinzione a me personalmente è sempre mancata e gli invidio tanto. Ecco, questo, cioè l'aspetto anche di, appunto, di perseveranza di alcuni di questi soggetti, che alcune volte tramite, cioè, attraverso avversità, francamente lui non credo che ne abbia patito molto, però se l'è sicuramente meritata questa cosa, quindi è invidiabile e sarebbe da studiare anche per questo motivo. Comunque, a livello di accordatura non esiste un'accordatura vera. Dopo il clavicembalo temperato c'è stata appunto l'accordatura, ahimè, nazista, e si diceva che sono tutte alla fine baggianate. Uno dovrebbe accordarsi come più gli piace, no? Beh, più che altro sono i rapporti tra le note. Il sistema ben temperato è una correzione fatta a beneficio della praticità di esecuzione, che però secondo alcuni che trattiamo stasera, diciamo che rovina determinate connessioni matematiche della musica con, ma quindi andiamo con i cicli di tutto il resto, andiamo sull'esoterismo, o c'è una parte esoterica molto importante che attraversa tutti questi compositori in un modo o in un altro, ed è un esoterismo di matrice ovviamente religiosa, però certo, che è sempre presente, che sia Crowley per il suo Dund, oppure la mistica indiana, oppure concezioni personali come quella di Parch, c'è le magne palestine con i suoi orsetti. Esatto, infatti, parlando di degli orsetti, chi ha avuto la possibilità di guardare, ahimè, su quel canale putrido che è Facebook, il post che è stato fatto, c'era una fotografia di questo signore con una miriade di orsetti dietro, con la scritta: sapete chi è lui? Ascoltateci, ok, e lui è Charlemagne Palestine. Sempre un americano, che è stato anche uno scultore di origine europea, cioè, anche lì non si capisce mai bene, studioso dell'est, penso che essere della Cecoslovacchia, ok, ha avuto influenze appunto come la Monte Young che stiamo ascoltando, ha studiato con Morton Subotnick che abbiamo ascoltato prima, e è molto importante per i bordoni o per i droni come si chiamano oggi. Lo facciamo sentire, però gli orsetti perché sono importanti? Gli orsetti che sono anche colorati. Gli orsetti sono il suo pubblico. Lui considera sono delle creature molto pazienti e silenziose, in grado di apprezzare i tempi della sua musica. Quindi il suo pubblico fondamentale. Charlemagne è un tipo molto ironico. Sicuramente è un'ironia che io apprezzo, è sempre stato abbastanza fuori dagli schemi, penso, cioè anche lui dentro e fuori dall'accademia, perché fondamentalmente lui dichiara di essersi iscritto all'università perché voleva scansare la guerra. Mi sembra un ottimo motivo. La guerra del Vietnam. E lui veniva mal tollerato perché, insomma, era un po'. Insomma, se guardate qualche foto, vi rendete conto anche ora. Insomma, doveva essere un po' ingombrante in un ambito accademico. Però è sempre rimasto lì nell'ambito, e qualcuno in fin dei conti gli ha voluto bene. Disponiamo di un largo numero di sgabbiati in questa rassegna, quasi tutti sono venuti in contatto con lui, ma poi per esempio parla di questa cosa fantastica, questa scuola che si chiamava Cal Arts, che era patrocinata dalla Disney, no? E Disney, cioè, non è che fosse proprio un compagno. No, per niente. E quindi lui ride sul fatto che fondamentalmente Disney e la Disney avevano inconsciamente finanziato tutto quello che loro odiavano, cioè una scuola di fricchettoni scoppiati, insomma. Quindi hanno permesso di andare avanti a un tot di cose che sono state poi fondamentali, ma loro malgrado, perché non avevano assolutamente previsto questa cosa. Come, cioè, per esempio, i commenti che fa sulla sua predilezione per alcuni strumenti. Lui ha usato tantissimo l'organo, e quando gli chiedono perché, dice: ma perché gli organi in fin dei conti stanno nelle chiese, le chiese di solito sono anche vuote e gli organi non li usa nessuno, quindi per uno che non c'aveva soldi, esatto, fare insomma, cioè, una chiesa, entravi, c'era l'organo, fare di necessità virtù. Perfetto, praticamente. Poi non è che lui non abbia usato lo stesso discorso per uno dei suoi dischi fondamentali, questo Strumming Music, che poi lui ha riproposto in varie versioni. Nacque dal fatto che in una delle università dove lo tolleravano loro malgrado, c'era questo enorme piano, uno dei più grossi che c'erano in circolazione, che stava in una stanza che era il restauro, quindi non era insonorizzata, non era usata. Il fatto che non fosse insonorizzata dava a questa stanza un sacco di risonanze. Il piano non lo usava nessuno e lui ci si è messo a giocare. Bellissimo. Intanto sta andando il suo bordone, o il drone, come lo chiamiamo oggi, in lingua internazionale, sciupando un po' qualcosa di buono delle terminologie antiche. Charlemagne Palestine, Three Fifth del 74, tratto dal primo album suo solista, For Manifestation of Six Elements. commenti da fare su Charlemagne Palestine. Che come nel caso di Sazertes, anche Charlemagne è stato, diciamo, richiamato in attività da persone che l'avevano sentito, nel suo caso da gente che l'aveva sentito suonare o che era stato ospite delle sue cose quando lui stava in America, che l'hanno ricercato quando lui ormai stava in Francia e fondamentalmente penso avesse abbandonato la musica. In un periodo dice di aver fatto il visual artist, penso sempre orsetti, solo più grossi. E questa gente gli chiedeva di suonare, e a un certo punto lui ci ha dovuto spiegargli che in effetti lui ce l'avrebbe anche fatto, solo che non c'aveva una lira. E quindi loro l'hanno aiutato a rimettersi un po' in marcia e diciamo che grazie a questi giovani, tra virgolette, fans, adesso abbiamo Charlemagne che suona e noi siamo contentissimi, siamo contenti e lo apprezziamo. L'altra cosa è il suo felice e imperituro alcolismo. Charlemagne Palestina ha sempre sostenuto che l'alcol per lui non è mai stato un problema, anzi è una cosa fantastica, non se ne può fare a meno, lo aiuta moltissimo, è un bevitore felice. Solo in un periodo ha detto che aveva smesso di bere perché... Ma scherzava? No, non penso, ma fondamentalmente perché non suonava, non stava suonando e quindi... cioè, gli prendeva un po' sul triste, però per il resto è sempre stato come Harry Parch. Anche Harry Parch ha fatto un po' una fine anche legata all'alcolismo, però nella sua vita è sempre stato un bevitore felice. Non voglio spezzare una lancia in fronte di questo vizio. No, figurati se parliamo bene dell'alcolismo. No, io non sono mai stato manco io. Né felice né un bevitore felice. E quindi, parlando di bevitori, ci leghiamo al prossimo pezzo, che appunto è un pezzo tuo, che finalmente sentiamo qualcosa di tuo. Perché parlando dei bevitori? No, vabbè, no, così, sai che sono cose che uno dice così? No, collegamenti, sì. Vabbè. Andando contro l'alcolismo, presentiamo un pezzo cattolico. No. Ora, come detto, non, cioè, cercare di evitare certi tipi di espressioni, però se proprio insisti. No, vabbè, a parte gli scherzi, è l'ora di ascoltare anche qualcosa di Filippo Panichi insieme a Jeff Burek, che insomma collaborano da tanto. Filippo Panichi ha collaborato anche con altre persone, ha fatto uscire cose diversificate, è uscita anche una compilation recentemente recensita molto bene di chi è? Il progetto è di Marco Lucchi, è una compilation più o meno infinita che si chiama The Path. Ok. Cioè, diciamo che la traccia mia dura una mezz'oretta. Ah, hai detto e una. Le altre è un circa disco. 11 ore di compilation. Ok, che è scaricabile, vabbè. Comunque non... Sì, è free download, contiene molte cose, a parte la mia rielaborazione, molte tracce valide. Tutte, diciamo. Tutte. E, se avete tempo. A parte questo, il pezzo che cioè, narraci di Jeff Burek e di tu, insomma. Vabbè, Jeff è un musicista, diciamo, molto più cioè, una storia, diciamo, è americano, ha viaggiato molto, ha studiato gamelan, danzabutu, ha suonato con gente per me è molto importante. A un certo punto è capitato che ci siamo conosciuti e ci siamo stati simpatici, ci siamo conosciuti qui a Firenze, abbiamo registrato delle session che poi sono diventate una release anche se solamente su internet, perché è un po' lunghetta anche quella, non stava su CD molto bene. No, perché poi questa storia dei supporti ci avrebbe anche un po' scassato la XXX. Sì, diciamo che sono confinati a determinate durate, quindi quello era un po' troppo lungo per un CD, Immagino che tutti gli autori che abbiamo ascoltato, se avessero avuto la possibilità di ricreare una cosa lunghissima, senza limiti di tempo in riproduzione, sarebbero stati felicissimi, tipo il top. Sì, molti poi quando hanno potuto hanno anche provato a farlo, cioè per esempio anche Subotnik non voleva dividere Silver Apples of the Moon in due lati, solamente che il disco andava girato. Certo, sarebbe stato già contento di avere un CD, probabilmente. Certo, è come un po' i filmati di... di Andy Warhol su l'Empire State Building, che duravano ore e praticamente ogni X doveva cambiare la bobina. Oggi non sarebbe così, insomma. Sì, il concetto di durata. Recentemente penso sia uscito il trailer del film, sicuramente è il trailer più lungo del mondo, è un trailer di 7 ore e il film dura penso un mesetto. Ah, bene. C'è una cosa che bisogna. Cioè, lo lasci lì. Un po' di tempo libero. Ma sì. Di chi? Questo è difficile. Cioè, adesso parte del mio cervello è su Google, quindi dovrei connetterlo. Insomma, vabbè, professori di storia dell'arte e storia del cinema e storia della musica, considerate questa trasmissione, perché insomma, vi diamo le pezze. Noi siamo sempre un po' quel tanto approssimativi, ma perché vi vogliamo fare un po' applicare? Applicatevi bene, dai, agli studenti universitari non basta arrivare fino ai Beatles. Informazioni imprecise. Vabbè, comunque, mettiamo questo pezzo di Filippo Panichi e Jeff Burek, questa non è... Cioè è il proseguimento della nostra conoscenza qui a Firenze. Abbiamo registrato alcune cose suonando di persona, però questo, come altre cose, siccome non ci siamo potuti vedere per qualche tempo, abbiamo iniziato a scambiarci cose. Quindi sono tracce mandate da me a lui e di nuovo viceversa, completate con successive aggiunte e suggestioni, diciamo. E quindi nell'epoca del network, degli scambi digitali, facciamo ascoltare questo pezzo che ci sta un po' con tutte le cose che avete ascoltato prima di Bordoni e psichedelia e di Foraggine. trasmissione più odierna, pompata di cose che abbiamo sentito. Era Filippo Panichi con Jeff Burek. Filippo Panichi è con noi. Non poteva mancare nella puntata Moondog, che appunto ha avuto una vita molto particolare. Cieco, ha sfruttato dei programmi governativi per riuscire a studiare musica, dopodiché ha preferito fare barbonaggio. Ovviamente era legato a certi tipi di esoterismo, si sentiva un po' il dio Thor, per cui si vestiva con vestiti cuciti a mano, con corna e altro e altri abbigliamenti, diciamo normanni, non lo so, era chiamato vichingo della Sesta Avenue perché ha abitato per 20 anni per strada, costruendosi strumenti da solo. Già lì, insomma, è abbastanza pazzesco, facendo suonare gli strumenti a casaccio con le persone che incontrava per strada. Ma c'è da dire che la Sixth Avenue a New York era una strada molto affollata, per cui ha avuto occasione di conoscere appunto persone che abbiamo avuto modo di ascoltare stasera, tipo... Ma è tipo anche Shirley Man. C'è Alemagna Palestine che dichiara di averlo incontrato, ma i Jefferson Airplane che gli dedicarono una canzone che non mi ricordo qual è, alla voce inesattezze. Andiamo sul difficile. Sì, comunque insomma era un personaggio noto. A un certo punto si trasferì in Europa e penso anche in questo caso perché qualcuno era un suo fan e lui ritenne meglio andare, insomma c'aveva anche una certa età, penso sulla sessantina, e si trasferì in Germania e lì una parte della sua discografia è stata ripubblicata. Ricordiamo che lui cioè, sapeva comporre, ma per tantissimi anni ha costruito pezzi basandosi su percussioni autocostruite da cieco, per cui veramente è stato un personaggio fondamentale, per quanto mi sconosciuto ai più, e stasera a Radio lui Wombat fondamentalmente suonava solo un tamburo. Generalmente okay. Usava per dirigere questa specie di tamburo che non mi ricordo come chiamasse, una specie di tom, però in realtà sapeva suonare vari strumenti. Certo, perché il pezzo che ascoltiamo ora è del 95, lui è morto nel 99, per cui era già vecchissimo, e qui dirigeva una big band. Infatti il disco è Moondog Big Band appunto del 95, si chiama Invocazione, immagino sia al dio Thor, e comunque è un altro esempio di drone. Ora non è il classico pezzo che si può ascoltare di Moondog, ma insomma ci stava bene con la serata, ci stava bene col fatto che era veramente un outsider, perché appunto viveva proprio fuori per gli affari suoi, senza rendere conto a nessuno, imponendo semplicemente il suo modo di vivere, che era anche un modo musicale. Quindi tanta stima, e ascoltiamoci Invocation. Thank you. Outsiders come 8 Hertz, che dovrebbero un po' aggiornare il vostro cervello a qualcosa di un po' diverso da quello che ascoltate ogni giorno. Siamo arrivati alla fine con Filippo Panichi, e appunto finiamo con un esperimento, uno pseudo gruppo italiano che si chiamano Materia Prima, Prima Materia, scusa. Ci vuoi dire qualcosa? Che insomma, è molto difficile trovare notizie su di loro. Francamente so più della fine di questa esperienza che degli inizi. L'unico nome che conosco è quello di Roberto Laneri, che è tuttora in attività, sta a Roma. iniziò questo progetto, e fondamentalmente erano improvvisazioni di canto armonico, canto risonante, con varie tecniche, un giro particolarmente scarso, ma non so esattamente chi fossero gli altri. Sicuramente a un certo punto lui riportò questo progetto in Europa, che è dove la gran parte delle cose sono state registrate, e hanno suonato abbastanza in giro. Il progetto è iniziato nel 72, nel 77, cioè diciamo quella che per me è stato uno dei motivi per cui sono venuto in contatto con la musica, cioè l'incontro con Alvin Curran, che è un altro di quelli che magari faranno parte della prossima, cioè di una prossima puntata, e con soprattutto Giacinto Scelsi, che è forse più ignorato, tardivamente riscoperto dei nostri compositori, perché fondarono insieme un'etichetta che si chiamava Ananda, che pubblicò questo LP The Tale of the Tiger, che è registrato dal vivo come più o meno tutto il resto. E da lì iniziò una parte di, diciamo, anche di divulgazione, quindi con seminari e conferenze sul canto armonico e apparizioni anche su canali televisivi. Però esattamente chi fossero i componenti di Prima Materia non ve lo so dire. Non sappiamo. E non sei perdonato. No, vabbè, no, scherzo. Speriamo che mi perdoni Roberto Laneri. Ci perdonerà. No, almeno lui l'abbiamo citato. Ci perdonerà. Questo è l'ultimo pezzo di questa puntata di 8 Hertz. Ringrazio tantissimo questa Filippo Panichi. Molto avanti per quei tempi, ma sfido chiunque a trovare questi brani che abbiamo messo, anche da inizio serata fino ad ora, ma già a partire dai coil del jingle iniziale in loop. È un pezzo live nel 76, adesso ci sono i Purpa che fanno roba del genere, ma già in questi anni c'era chi sperimentava sui canti tibetani e sull'om. Quindi vi salutiamo, ciao Filippo, grazie, spero che ritornerai presto per altre puntate deliranti. Loro sono i Prima Materia e questo è un live del 76, grazie a chi ci ha ascoltato, seguiteci ancora, a presto, 8 Hertz, Radio Wombat.